Riflessi d'oltretevere. Una buona domenica da Katia Caramelli. Domani nel Duomo di Milano si celebreranno i funerali di Monsignor Luigi Padovese, ucciso in Turchia dal suo autista. Era uomo di dialogo Luigi Padovese, così lo abbiamo conosciuto. Una mano sempre tesa all'Islam, la sua, ma anche un forte impegno per tutelare i diritti dei cristiani in un paese difficile per le minoranze religiose. Lo avevamo incontrato il 30 novembre del 2006 ad Istanbul, in occasione della visita di Benedetto XVI, preceduta dalle polemiche per il discorso di Ratisbona. Oggi vogliamo dedicare a lui questa puntata, riproponendovi l'intervista che ci aveva rilasciato quel giorno. Il discorso di Ratisbona sembra ormai alle spalle. E non soltanto alle spalle, ma tutto sommato si è rivelato abbastanza positivo. Perché tutto sommato ha concentrato sul Papa, su questa visita, un'attenzione che forse non ci sarebbe stata in una situazione diversa. Questo dialogo col mondo musulmano deve essere preso seriamente, cioè non soltanto a livello di buone parole e di buona volontà, ma attraverso gesti concreti. Bardagoglu ha detto che ci sono troppi pregiudizi, che si vede l'Islam sempre come la religione della spada e non lo è. Però potrei dire anche l'incontrario. Io vivendo qui mi rendo conto anche dei pregiudizi che si hanno nei confronti dei cristiani, per cui la cosa importante secondo me è che i pregiudizi si tolgano e da una parte e dall'altra, no? È vero, anche qua io parlerei di una reciprocità, no? Proprio per questione di chiarezza, non limitandomi soltanto a mostrare le positività dell'Islam, che sono innegabili, ma al tempo stesso anche far conoscere veramente che cosa noi cristiani crediamo. E talvolta siamo presentati un po' come atei, come miscredenti, e quando una maestra in scuola dice che i cristiani andranno tutti all'inferno a dei bambini di 7-8 anni, lei capisce quale impressione questo può fare su dei giovani, bambini, adolescenti. Tutto sommato di minacce in questo tempo ce ne sono state tantissime. Se tutte avessero sortito l'effetto desiderato, credo che attualmente non ci sarebbe più neanche la Chiesa Cattolica, neanche il Vaticano, tanto per intenderci, no? Quindi andiamo avanti con una certa tranquillità, evidentemente con molta cautela, molta prudenza. Maria Grazia Zambon, giornalista, vive in Turchia. Lo conosceva molto bene Monsignor Padovese e così lo ricorda. La sua bontà, il suo senso di mediazione con tutti e il suo essere studioso, appassionato della Turchia e nello stesso tempo semplice e vicino alla gente. E la cosa che colpisce è questa, proprio lui che era uno studioso e cercava di capire la complessità della realtà in cui viveva e quindi di aprirsi al dialogo, alla conoscenza e alle relazioni con tutti, dalle persone più semplici, quindi dalla sua comunità, dal suo piccolo gregge di cristiani che aveva intorno, ai suoi confratelli vescovi, ma anche con il mufti della regione, quindi anche con i musulmani, a tutti i livelli, anche le autorità civili, e questo si è visto molto bene durante il funerale, che veramente c'era una folla immensa di tutti i ceti sociali e di tutti i credi religiosi. Sicuramente vivere in Turchia non è facile, proprio per questa complessità della realtà che c'è. Ecco, sia a livello sociale, sia perché è una cultura diversa dalla nostra. Si è sempre battuto anche per la tutela delle minoranze religiose, quindi anche dei cristiani. Certo, ma proprio perché lui amava questa terra, amava questo popolo e amava la Chiesa, giusto come pastore e vescovo di questo gregge. Cosa le resta di Monsignor Padovese? Prima di tutto un grande vuoto, però soprattutto l'invito a seguirlo, a seguire la sua testimonianza, a seguire il suo essere uomo di Dio e soprattutto la sua fedeltà al Vangelo e alla Chiesa e la sua passione per la Turchia e per questa gente. E quindi credo anche l'invito davvero a non semplificare, a non banalizzare, a non emettere sentenze, ma cercare di capire, ecco, di capire dove siamo, cosa stiamo vivendo e quindi trovare una luce per la nostra vita e per quanto siamo chiamati a portare avanti qua giù. Ora c'è Don Willy Volonté, noi ci risentiamo domenica prossima. Più sacro che profano. Troppo poco il tempo per dire la testimonianza che ha dato Papa Benedetto durante la sua recente viaggio in Portogallo, insieme al discorso tenuto a Ratisbona nel 2006 al Mondo della Scienza, a Parigi nel 2008 per il Mondo della Cultura e quello mai avvenuto per miopia culturale all'Università La Sapienza di Roma, quello recente tenuto a Lisbona è tra i più qualificanti. Le possiamo così riassumere le riflessioni principali. Primo, la modernità non può fare a meno della grande tradizione. Deve fare inevitabilmente i conti con il suo passato se vuole evitare errori e orrori. Secondo, il criterio che deve indirizzare l'interpretazione del nostro passato è il rispetto per la dignità della persona umana. Terzo, là dove la vera religione, attenzione, non le ideologie religiose. La vera religione è stata evacuata, svuotata nel suo vero significato, sono nate le male erbe delle ideologie totalitarie. I lager nazisti, i gulag sovietici, le pulizie etniche sono lì per rammentarcelo. Quarto, coloro che hanno propugnato che la novità sta nella rottura con il passato non hanno generato cose nuove, ma cose vecchie senza futuro. Questa posizione di Papa Benedetto XVI è insieme storica e guarda al futuro. Nella modernità, afferma Massimo Introvigne, certe esigenze o istanze che toccano l'umanità profonda dell'uomo non sono sbagliate, ma una volta emarginata la fede religiosa in queste esigenze, corrispondono purtroppo esiti e risposte che portano a gravi errori, che si risolvono quasi sempre in tragici orrori.